Your life is your life. Don't let it be clubbed into dank submission. Be on the watch. There are ways out. There is light somewhere. It may not be much light, but it beats the darkness. Be on the watch. The gods will offer you chances. Know them and take them. You can't beat death, but you can beat death in life. Sometimes the more often you learn to do it, the more light there will be. Your life is your life. Know it while you have it. You are marvelous. The gods wait to delight in you. Corsica, plastique radiophonique. Es tu vida. No dejes que la obliguen a someterse a la oscuridad. Mantente alerta. Hay salidas. Hay una luz. Una luz en alguna parte. Puede que no sea mucha, pero siempre supera a la oscuridad. mantente alerta. Dios te ofrecerá oportunidades. Yo digo que puedes vencer a la muerte y sobre todo puedes vencer a la muerte en vida. Y cuanto más a menudo aprendas a hacerlo, más luz habrá. Tu vida es tu vida. Conócela mientras la tengas. Eres maravillosa. Y Dios es particularmente afecto a ti. Ring the bell once more, she said. Come inside, come escape the rain. Here the hopes are in love, we've wed. Dream the lines, come erase the pain. Into the corridor. Be our hearts, lubricate the veins. Stay the course, it's umbilical. It's the structure of man, the fabric of space in our frame. Top of the stairs, she said. aquí somos el cuerpo de la luz. Aquí somos el tejido de la vida. Ven, escúchame. Coloca tu mano en mi corazón y dime todo lo que quieres decir. Dime, ¿quién eres ahora? Hoy estando pensando cuánto te quiero, me puse triste. Qué locura del ser, como el aire atrapando un perfume, se va nuestra vida. Mm-hmm. Mm-hmm. fui llevando conmigo unas horquillas que añoran tus pasos, pensamientos con forma de hojas que viajan dormidas a hablarle al espacio. No puede ser que estemos aquí para no poder ser. Julio Cortázar, Rayuela, capítulo 18. Buen tiempo y buena estrella. Solo per vederti o parlare. bisogno della tua presenza per capire meglio la mia essenza. Questo sentimento popolare nasce da meccaniche divine, un rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane, fare come un eremita che rinuncia a sé. E ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie radici. Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male, essere un'immagine divina di questa realtà. E ti vengo a cercare